sulle vette della santità, umiltà, amore della povertà e dei poveri, le virtù eroiche del curato d'Ars. La Chiesa Cattolica, quando considera possibile la beatificazione di una persona morta in concetto di santità, ne studia a lungo e minuziosamente la vita e le opere, per scoprire se rivelano i contrassegni delle virtù cristiane esercitate in grado eroico. È questo l'esame che ha portato il curato d'Ars all'onore degli altari. Lo storico non ha il compito di rifare il processo di canonizzazione, basterà che dica per quale virtù si è distinto fra i santi venerati dalla Chiesa. E queste sono quattro, a nostro avviso: l'umiltà, l'amore della povertà e dei poveri, la pazienza e la mortificazione. Va sottolineato che qui si parla di virtù eroiche, cioè di abiti quasi sovrumani, nei quali la disposizione ordinaria dell'anima è l'eroismo, e non invece di atti eroici spontanei e transitori nati da circostanze fortuite. Aggiungiamo che nella considerazione di queste altissime virtù non potremo ammirare se non la manifestazione esteriore, perché l'azione costante della divina grazia che elevò il curato d'Ars alle vette della santità ci rimane quasi sconosciuta. L'umiltà. La prima delle virtù morali, l'umiltà, senza la quale ogni altra virtù non è che apparenza, nella vita del santo fu la norma della vita. Essa traspariva da tutta la persona. Nel 1858 lo visitò Monsignor di Segur, che dopo di aver osservato Don Vianney affermò che questa sola virtù sarebbe bastata a farlo canonizzare. Questo illustre prelato, cieco, ritornato al castello dove aveva trovato ospitalità, non cessava di parlare dell'umiltà del curato d'Ars. La contessa di Garez riferisce che il santo, nell'incessante flusso di pellegrini, che doveva essere per lui continua tentazione di amor proprio, gli era sembrato un vero prodigio d'umiltà. Anche Don Raimond, che fu un testimonio della sua vita e per di più testimonio assai severo, dovette rendere omaggio a questa meravigliosa umiltà e disse: «Una delle cose che più mi colpirono nella vita del curato d'Ars è che egli abbia potuto resistere in modo ammirabile all'esaltazione di lodi continue. Comprendeva perfettamente che ad Ars si veniva per cercare lui, e tuttavia non potei mai né sorprendere un sentimento di orgoglio nel suo cuore né raccogliere una parola di vanità dalle sue labbra. Un presuntuoso, anche abile, stordito da tanta gloria, si sarebbe smarrito. Una virtù ordinaria non avrebbe potuto resistere a lungo. Solo un santo poteva mantenersi umile nel trionfo». La baronessa di Belvei, persona equilibrata e perspicace, pensa che il suo santo confessore sia arrivato a tale grado di santità da non provare più gli assalti della vanagloria, e scrive: «Sembrava indifferente ad ogni lode e preoccupato solo di compiere i doveri del suo ministero. Fra le acclamazioni della folla passava come uno di quegli innocenti che ammiriamo per il loro candore. Egli praticò alla lettera quella dolce vita da fanciulli che Santa Teresa del Bambin Gesù insegnò e visse con sublime perfezione. Don Dufour, missionario di Pont-d'En, dice: un giorno un sacerdote gli rivolse parole adulatrici. Il santo lo fissò con sguardo stupito e gli chiese: Dio mio, che dite? Vi è un'umiltà ordinaria, necessaria per tutti, che sta nella giusta valutazione che ciascuno deve dare di se stesso, umiltà che è in fondo questione di buon senso. Ma la virtù di Don Vianney passò oltre questo grado elementare e, sorretto dalla grazia divina, senza la quale ogni interiore miglioramento sarebbe impossibile, giunse a quello stadio eroico che nei santi è frutto di favori particolari, più dono gratuito di Dio che risultato di sforzi umani. Di questo rese testimonianza a sé medesimo nei momenti di intimità. Figlia mia, disse ad una penitente, non domandate a Dio di conoscere del tutto la vostra miseria. Io ho chiesto ed ottenuto questa grazia, ma ho avuto in me tale sconcerto che se il Signore non mi avesse sostenuto con la sua grazia, sarei caduto nella disperazione. Simili confidenze riservava anche al fratello Atanasio. Fui così spaventato quando conobbi la mia miseria che domandai subito la grazia di dimenticarla. Il Signore mi ha esaudito, ma mi ha lasciato però una tale sensazione della mia insufficienza da essere persuaso che non sono capace di nulla. Non ignorava il bene che suscitava con il suo ministero, ma si considerava solo uno strumento nelle mani di Dio e da lui riferiva ogni gloria. «Io sono come una pialla in mano al Signore», dicevo un giorno a fratello Atanasio. «Amico mio, se il Signore avesse trovato un prete più ignorante e più indegno di me, lo avrebbe scelto per collocarlo al mio posto, in segno della sua infinita misericordia per i poveri peccatori». Rendendosi conto della sua limitatezza, comprendeva come fosse favorito dall'alto e che quanto suscitava di bene aveva altra sorgente che non le sue forze. Non si nascondeva neppure come, senza l'aiuto divino che lo tenne sempre saldo in mezzo ai pericoli, avrebbe potuto perdersi e diceva: «Io sono l'ultima delle creature. Se Dio non mi avesse risparmiato, che sarei diventato?» Non mancano coloro che si fanno umili per raccogliere lodi, con quella falsa virtù che il curato d'Ars definiva umiltà a rovescio. Ma egli ne restò sempre immune, e se parlava della sua ignoranza, della sua indegnità e della sua miseria, non vi mise mai il minimo senso di affettazione. Si può dire che egli era l'umiltà personificata. Il parroco di Saint-Rivier-sur-Mognan, Don Saint-Martin, che lo aveva conosciuto molto da vicino, sintetizzava i suoi ricordi in queste parole: «Ho imparato a conoscere l'umiltà più che in tutti i libri, dall'aspetto, dall'espressione, dal linguaggio del curato d'Ars. Quando parlava di sé come di un peccatore che sente bisogno di piangere la sua povera vita, lo faceva con tale accento di semplicità e di sincerità che era impossibile mettere in dubbio la veridicità dei suoi sentimenti. Non riuscì a soffocare l'unanimo concerto di lodi che invece s'accrebbe costantemente. La fama di santità gli ha fatto aureola suo malgrado. Era però umile con giusto criterio, non cercando le umiliazioni per se stesse. E quando gli venivano indirizzate parole di lode, non le rispingeva direttamente, si accontentava di sviarne l'attenzione con una replica piena di spirito. Il poeta Jasmin, autore del libro Papillotos, venuto ad Ars per conoscere il santo, nel saluto di commiato disse: «Signor curato, non ho mai visto Dio così da vicino». «Difatti», commentò Don Vianney, «non è lontano», ed indicò il tabernacolo. Né si pensi che cercando l'umiltà abbia voluto attirare su di sé il ridicolo. L'umiltà in lui, dice la contessa di Garez, aveva carattere di dignità. Scherzava qualche volta su se stesso, ma solo tra intimi. E se qualche volta in pubblico sembrò un po' strano, non ebbe l'intenzione di esserlo. I pellegrini che lo videro qualche volta attraversare la strada col suo piccolo vaso di latte in mano poterono forse sorridere, ma quale motivo di edificazione per essi nel sapere che si comportava in tal modo onde guadagnar tempo e poter ritornare più presto alla sua occupazione sublime? Non mancarono circostanze nelle quali l'afflizione per le lodi ricevute si manifestò sul suo viso. Spesso i predicatori venuti di fuori, parlando alla sua presenza, giudicavano cosa buona dire una parola di lode del curato agli uditori, ed allora, dice la contessa di Garez, passava nello sguardo del santo un lampo di contrarietà. Immediatamente si nascondeva nel suo stallo con aria di tanta pena che noi stessi ne eravamo afflitti. Alla chiusura di un quaresimale, il predicatore che aveva fatto una perorazione in lode del servo di Dio, quando giunse alla sagrestia, si sentì apostrofare: «Avete sempre predicato bene, ma disgraziatamente avete arrischiato di rovinare tutto nell'ultimo sermone». Un giorno, per semplice disattenzione, Monsignor De Vie, lui presente, espresse ad alta voce un suo pensiero: «Il mio santo curato». Fu una vera desolazione che gli fece esclamare: «Persino il mio vescovo si inganna a mio riguardo, quanto devo dunque essere ipocrita». Fratel Gabriele, superiore della congregazione della Sacra Famiglia, aveva scritto un libro dal titolo «L'angelo conduttore dei pellegrini di Ars» e ne portò 6 copie al santo, che li ricevette con gioia commentando che quel libro avrebbe fatto tanto bene. Nella prefazione, dice l'autore, avevo tracciato in brevi linee la vita di Don Vianney, che proponevo come modello di virtù e di santità. Il giorno seguente, appena mi vide nella chiesa, mi indicò di seguirlo in sagrestia. Lo seguii immediatamente, sorpreso di vedere impressi sul suo viso segni di afflizione. Appena chiusa la porta, con molta animazione e molte lacrime, mi disse: «Amico mio, non vi credevo capace di fare un libro cattivo». «Oh, signor curato, sì, avete fatto un libro cattivo, è un libro cattivo. Quanto vi è costato? Ditemelo. Voglio rimborsarvelo e poi lo bruceremo». Non senza meraviglia gli chiesi cosa contenesse di male. «Sì, sì, è un libro cattivo, è un libro cattivo». «Ma dunque, reverendo, ditemi che cosa vi dispiace in esso». «Ebbene, ve lo dirò. Voi parlate di me come di un uomo virtuoso, come di un santo, mentre io sono l'ultimo dei preti. Eppure ho mostrato questo libro a persone istruite ed anche al vescovo, che ne ha visto le bozze e ha dato la sua approvazione. Non può quindi trattarsi di un libro cattivo». A queste parole le lacrime del santo si fecero più amare. «Togliete tutto quello che mi riguarda e sarà un buon libro». Al ritorno narrai l'episodio a Monsignor De Vie, che lo commentò in questi termini: «Quale lezione di umiltà ci dà questo prete? No, no, non togliete nulla dal vostro libro, ve lo proibisco». Io obbedii, ma notai che il buon curato non acconsentì mai a porre il suo nome su alcun esemplare. Lui, che con tanta arrendevolezza e benevolenza metteva la sua firma sugli oggetti e libri di pietà che gli venivano presentati. Nel 1845 veniva nominato a Jassin il nuovo parroco Don Beu, che volle entrare in relazione con Don Vianney, suo confratello di Ars. Fu ricevuto dall'ausiliare Don Raymond, che lo tenne con sé a colazione. Don Vianney, che giunse a levar delle mense, si dimostrò felice di vederlo, lo abbracciò e gli strinse a lungo la mano. Poi lo condusse nella sua camera e con dolce familiarità gli disse: «Amico mio, il vostro predecessore ha avuto la carità di ascoltare le mie confessioni ed anche voi mi farete questo favore, non è vero?» Don Vianney aveva 59 anni, il suo confratello 37. Quest'ultimo, prescelto come direttore di coscienza da un santo, voleva opporre un rifiuto quando l'umile penitente ruppe ogni insistenza e con gesto risoluto indicò al giovane prete la sedia destinata al confessore, mentre egli, inginocchiata sul pavimento, cominciava la confessione. Il 24 giugno 1848 il padre Nègre, direttore di un patronato a Lione, aveva condotto ad Ars un gruppo di giovani e, sapendo che in quel giorno ricorreva l'onomastico del curato, aveva fatto preparare dalla piccola comitiva qualche poesia con frasi augurali. Era il tempo in cui si stava riordinando la provvidenza e si approfittò del momento in cui il santo la visitava per indirizzargli l'omaggio in versi. L'accoglienza non poteva essere più cordiale, ma disgraziatamente la fine non corrispose al principio, perché quando si incominciò la recita della poesia il santo si turbò e non si era ancora giunti al secondo verso che era scomparso. Sopportò sempre a malincuore l'accalcarsi della folla attorno a lui e provò dispiacere, come attesta la contessa di Garez, constatando che si cercavano oggetti a lui appartenuti per tenerli come reliquie. Un giorno, accorgendosi che era stata tagliuzzata la sua veste, gemeva: «Che devozione malintesa!» Quando si faceva tagliare i capelli, aveva cura di raccoglierli personalmente per bruciarli nel caminetto della sua camera. I suoi barbieri non furono molto scrupolosi e si lasciarono comperare senza resistenza. Per questo Giovanni Pertinan si fece molti amici, compì i ladrocini che rinnovava ad ogni occasione. Il curato d'Ars, che era il meno sospettoso degli uomini, molte volte non si rendeva conto di questi furti. Dopo una missione, accorgendosi che era scomparso il suo candeliere, uscì con questa osservazione: «Strano, pensavo che tutti si fossero convertiti, ed ecco che sono vittima di furti». Quando negli ultimi anni della sua vita il dottor Saunier pensò di levargli un po' di sangue per evitare una congestione cerebrale, Don Vianney lo fece portare al cimitero perché si trattava di sangue cristiano, ma volle che fosse sepolto in sua presenza. È facile immaginare che queste precauzioni non impedirono ai buoni fratelli della Sacra Famiglia di sottrarne un po' per distribuirlo come preziosa reliquia. I ritratti del curato d'Ars. Fu per lui prova quanto mai penosa quella di vedere il suo ritratto affisso dappertutto nel piccolo villaggio. Verso il 1845 cominciarono ad apparire e a divulgarsi le immagini di Épinal, nelle quali erano rappresentati diversi fatti della sua vita. Turbato ed afflitto, tentò dapprima di farle sparire, ma incontrò l'opposizione dei mercanti che si aiutavano in questo modo per guadagnarsi la vita e si lasciò convincere dalle loro insistenze. «Quanto ricavate da queste immagini?» 10 centesimi, signor curato.» 10 centesimi? È già troppo per questo misero carnevale. Fate pure.» Un giorno, passando davanti ad una vetrina, vide il suo ritratto e ne chiese il prezzo. 5 franchi, signor curato.» 5 franchi? Non riuscirete a venderlo. Il curato d'Ars non li vale.» Infine, diceva qualche volta, «se questo povero carnevale serve a far ricordare i consigli che ho dato, non sarà del tutto inutile.» Tuttavia, per indicare il disprezzo in cui teneva queste cose, rifiutò sempre di mettere il suo nome sulle fotografie o di benedirle, ed ogni volta che ne trovava qualcuna fra le immagini che a lui presentavano, la toglieva con gesto brusco e con riflessioni canzonatorie. «Serve solo 3 giorni all'anno», e voleva dire gli ultimi 3 giorni di carnevale. Da ultimo, stanco, si limitava a burlarsene. Un giorno, dice la contessa di Garetz, dopo essersi trattenuto con mio marito davanti alla chiesa, lo condusse alla vetrina di una bottega e gli indicò quello che egli chiamava il suo carnevale, accennandovi con le uscite più comiche che si possano immaginare. Ad una giovane sua parrocchiana che aveva la bottega vicino al cimitero, diceva: «Tu giungi perfino ad impiccarmi ed a vendermi». Ed a Caterina Lassagne un giorno annunciava: «Mi hanno fatto un nuovo ritratto e questa volta sono proprio io. Ho l'espressione di un'oca». Quando vide una delle sue immagini con colori sgargianti più di quelli usuali, commentò allegramente: «Guardate, si direbbe che esco ora dall'osteria». Ma vi fu un punto sul quale fu sempre inflessibile, cioè non acconsentì mai a posare per una fotografia. La sola che si possiede gli venne presa sul suo letto di morte. Nel 1858 Don Toccanier, d'accordo con lo scultore Cabuchet, decise di ottenere a costo di qualsiasi sacrificio un'immagine un po' più fedele, perché fino a quel giorno non si avevano che ritratti senza rassomiglianza, presi alla sfuggita o anche disegnati a memoria. Lo scultore voleva realizzare un busto in cera. Come riuscirvi? Monsignor de la Galerie, che il 1 maggio 1857 aveva sostituito Monsignor Chalandon, nominato arcivescovo di Aix, diede allo scultore Cabuchet una lettera di raccomandazione destinata a vincere ogni difficoltà, e l'artista la consegnò al santo, inginocchiandosi al suo confessionale, mentre già stava levando la mano per benedirlo. Il curato, dopo averla letta, si alzò, condusse il falso penitente fino alla porta e lo congedò con queste parole perentorie: «No, no, né per voi né per il vostro vescovo». Essendo necessario giocare d'astuzia, Don Toccanier pensò di assicurare allo scultore un posto nella chiesa dal quale fosse possibile osservare il modello. L'artista assistette alla lezione di catechismo del santo, celando nell'ampio copricapo la provvista di cera. Aveva pensato di poter lavorare senza essere visto, e difatti tutto sembrava procedere bene. Ma dopo 8 giorni il curato, con voce non eccessivamente severa, lo apostrofò bruscamente: «Voi, quando finirete di distrarre me e gli altri?» Lo scultore Cabuchet aveva ormai finito di modellare nella cera la figura del santo, in modo da coglierne la fisionomia mobile, vivace ed espressiva, sulla quale si dipingevano ad ogni istante tutti i sentimenti di cui è capace un'anima profondamente sensibile. Finito il busto, l'artista lo portò nel refettorio dei missionari. Don Vianney venne messo di fronte alla sua immagine, la guardò e diede questo giudizio tra il faceto e il confuso. «Ah, questo non è un carnevale. Chi l'ha fatto?» Emiliano Cabuccio si fece avanti. «Voi mi avete disobbedito, signore», fece con tono più severo. «Posso io perdonarvi?» Don Toccanier ed i fratelli presenti a questa scena si pronunciarono in favore dell'artista. Don Vianney acconsentì a non esigere la distruzione dell'opera che lo rappresentava con tanta verità, dopo di aver ottenuto dall'autore la promessa che non l'avrebbe presentata al pubblico prima della sua morte. Pensieri del santo sull'umiltà. Così Don Vianney rimase costantemente umile, senza valersi neppure della sua fatica sovrumana per domandare privilegi. Se negli ultimi anni del suo ministero fu dispensato dalla recita del divino ufficio, questo avvenne unicamente per opera del suo coadiutore. Sembrava pure che la sua fama di confessore santo, la sua esperienza delle anime, dovessero rendere superflua l'annuale richiesta delle facoltà necessarie per amministrare tale sacramento, come è sancito dall'antico rituale di Belley. Invece, ogni anno, fino al 1858, domandò il rinnovo dei suoi poteri di giurisdizione, qualche volta direttamente al vescovo e qualche volta ad un vicario generale. Già sappiamo con quale mirabile sentimento di riconoscenza accettasse dal clero, anche da sacerdoti giovani e meno stimati di lui, ogni genere di correzioni. Aggiungeremo che anche quando godette della venerazione generale dei confratelli, continuò a considerarsi come loro inferiore. Li ricevette sempre con grandi dimostrazioni di rispetto, li circondò della massima venerazione e volle sempre fare assegnamento sulle loro preghiere. Vide sedersi attorno alla sua cattedra ed inginocchiarsi al suo confessionale vescovi, predicatori insigni, laici ragguardevoli, e dichiarò di preferire a tali visite quella di un mendicante che gli chiedesse l'elemosina. Berenger della Drôme venne a consultarlo nel 1850 su difficoltà che gli sembravano insolubili. Il santo, dopo averlo ascoltato, gli diede immediatamente l'indirizzo giusto, lasciando meravigliato l'illustre uomo di legge. Don Vianney non aveva neppure pensato di chiedergli il nome. Dopo il colloquio avuto nell'ottobre 1855 col prefetto dell'Aisne e con il generale delle truppe del dipartimento, venuti a felicitarsi con lui per la sua promozione alla Legion d'Onore, il conte di Garez disse: «Signor curato, Ars riceve i potenti della terra». Ed il santo, con assoluta indifferenza, commentò: «Sono corpi ed anime». Il padre Petetot, superiore dell'oratorio, ed il padre Combalot, missionario apostolico dalla parola ardente, vennero ad Ars per prendere lezioni di zelo e di eloquenza dal santo e se ne partirono pieni di meraviglia. Si vide Monsignor Allou, vescovo di Meaux, assistere alle sue prediche per 8 giorni consecutivi, confuso fra la folla dei fedeli. Monsignor Dupanloup e il cardinale de Bonal fecero il viaggio ad Ars per avere consigli, ma il santo non sembrava accorgersi di essere l'oggetto della loro pia venerazione, che riceveva come se fosse diretta ad altri. La sera del sabato 3 maggio 1845 giungeva in incognito ad Ars e prendeva alloggio al castello il padre Lacordaire, che da tempo desiderava vedere il santo. Alle 5 del mattino egli si recò alla chiesa e Don Vianney, nella gioia di vederlo, lo abbracciò con effusione stringendogli più volte le mani, mentre lo ringraziava con un sorriso di straordinaria felicità e gli preparava per la messa il calice più prezioso ed i paramenti più ricchi. Alle ore 10 l'illustre predicatore aveva preso posto nel banco riservato alla famiglia di Garez per assistere alla messa, durante la quale il santo avrebbe tenuto la sua omelia sul modo di ricevere lo Spirito Santo. Nel pomeriggio egli ritornò per il catechismo, fatto ancora dal servo di Dio. Accettò di cantare i vespri e di dire una parola al buon popolo di Ars e ai pellegrini, ma questa circostanza fu una delusione per molti appena giunti, che avrebbero preferito ascoltare il curato, tanto più che l'umiltà del pio sacerdote di cui era ospite dovette suggerirgli di rendere più sobrio il suo eloquio. Un testimone di questa scena dice che mentre il grande oratore teneva la sua predica, il santo ascoltava commosso, manifestando una intensa attenzione. Il lunedì seguente i sacerdoti delle parrocchie vicine, riuniti per la conferenza ecclesiastica, avevano fatto colazione al castello insieme al padre Le Cordard. Uno dei convitati gli rivolse queste parole: «Il curato d'Ars vi sarà sembrato ben poco eloquente. Ha predicato come dovrebbe fare ogni buon parroco», rispose freddamente l'illustre religioso. Il giorno prima, del resto, il grande oratore aveva già detto queste parole alla presenza del maestro Pertinan. Questo santo prete, parlando dello Spirito Santo, ha espresso in modo convincente un pensiero sul quale riflettevo da lungo tempo. Don Vianney sembra abbia approfittato della visita per umiliarsi anche più. In quei giorni disse infatti a Don Raimond: «Voi conoscete la teoria dei due estremi che si toccano. Ebbene, si è avverata anche ad Ars sul nostro pulpito, ove si sono viste la più alta scienza e la più bassa ignoranza». L'umiltà fu una virtù sempre cara al curato Vianney. Ne aveva tale culto, dice fratello Atanasio, che ne parlava sempre, specialmente nelle sue istruzioni. Ai fratelli della Sacra Famiglia non si stancava di ripetere: «Siate umili e semplici, più sarete umili e maggiore sarà il bene che compirete». Raccontava volentieri questa storia. Il diavolo apparve un giorno a San Macario, solitario della Tebaide, e gli disse: «Tutto quello che fai tu so farlo anch'io. Tu digiuni ed io non mangio mai, tu vegli ed io non dormo mai, ma vi è una cosa che tu fai e che io non so fare. Quale? Umiliarmi». Dice Don Toccanier che spesso ripeteva: «L'umiltà è per le virtù quello che è la catena per la corona del rosario. Togliete la catena ed i grani cadono, togliete l'umiltà e tutte le virtù scompaiono». L'amore della povertà. Un'anima umile ama anche la povertà ed i poveri. Di Don Vianney, tanto umile, si può dire quello che San Francesco d'Assisi diceva di se stesso quando affermava che aveva sposato Madonna Povertà. La camera del curato era povera, poveri i suoi mobili, povere le sue vesti, povero il suo cibo. Se si fosse voluta dipingere la povertà, non si sarebbe potuto farlo meglio prendendo a soggetto la sua persona e le sue cose. Vi furono confratelli che gli fecero qualche volta osservazioni circa il modo di vestire, giudicato troppo trascurato, fin dai suoi primi anni di sacerdozio. Finché ne ebbe comodità, cioè sino al 1827-28, pensò lui stesso a rammendare i suoi abiti, e siccome non riusciva troppo bene nei lavori di ago, è immaginabile che figura facessero sulle sue vesti certi rattoppi fatti da una mano troppo frettolosa. Gianna Maria Chanai, accennando alle sue calze, dice che vi aveva apportato così numerose cuciture che dovevano essere uno strazio per i suoi piedi. Caterina Lassagne lo sorprese un giorno mentre stava ricucendo i suoi calzoni ad un ginocchio. Stupita, si arrestò sulla soglia della camera fino a che il santo non l'accolse col suo tono scherzoso: «Dunque, Caterina, credevate di incontrare il vostro curato ed invece avete trovato un sarto». Fino al tempo del pellegrinaggio non possedette che una sola veste talare, tutta un rammendo. Questa povertà estrema e volontaria gli fu causa di grande imbarazzo un giorno d'inverno mentre tornava da una parrocchia vicina situata nella regione delle acque stagnanti. Camminando era caduto più volte sulla strada fangosa e si rendeva conto che sarebbe stata un'imprudenza proseguire in quello stato fino a casa, dove del resto non avrebbe trovato altra veste per cambiarsi. Pensò dunque di rifugiarsi da un suo buon parrocchiano al quale dovette manifestare la sua miseria. L'ospite, commosso, fu sollecito ad aiutarlo a svestirsi e gli prestò qualcuno dei suoi abiti intanto che la veste asciugava presso un gran fuoco. Ma quando incominciò il pellegrinaggio gli fecero presente che non doveva più portare simili abiti miserevoli. Fu persuaso ad accettare in dono due vesti, una delle quali tenne in serbo per i giorni solenni. Tuttavia preferiva la più povera, che usava fino al giorno in cui si riduceva a brandelli, giustificandosi in modo tutto suo. «Una veste sdrucita», diceva, «non sfigura sotto una bella pianeta». In una delle visite del suo vescovo dimenticò di indossare la veste migliore e se ne rammaricò. «Ci ho pensato troppo tardi», confidò a fratello Atanasio, «e me ne è dispiaciuto. Non acconsentì mai a possedere contemporaneamente più di due vesti e quando gliene offrirono una nuova per cambiarla con quella sdrucita, che sarebbe stata conservata come preziosa reliquia, ottennero un rifiuto. Qualche volta gli furono messi degli abiti in camera sua senza avvertirlo ed allora egli li consegnava ai fratelli della Sacra Famiglia. Così fratello Atanasio ne ebbe in dono tre. Secondo la testimonianza del suo confessore, Don Beur, negli ultimi 10 anni del suo ministero lo si vide meglio vestito e sempre in tenuta ecclesiastica completa, ossia vestito con semplicità ma anche con proprietà. Ma non portò mai il mantello e quando durante il giubileo del 1826 da lui predicato a Trevaux gliene regalarono uno, lo donò a un povero. Usava la stessa veste in estate ed in inverno. Durante questa stagione qualche volta gliela foderarono senza che egli se ne accorgesse. La canonica somigliava al parroco. Nello stretto cortile davanti alla porta erano cresciute 3 piante di sambuco e vegetava l'erba come in un prato. Per questo Don Vianney si compiaceva di chiamarlo il suo Bois de Boulogne. Quantunque è dubbio che abbia mai goduto la loro ombra o respirato il profumo di quei fiori. Le mura perdettero a poco l'intonaco, si screpolarono. Il conte di Garetz trovò difficoltà quando chiese di provvedere a sue spese alle necessarie riparazioni. Il santo si oppose ai lavori che si volevano fare nell'interno. «Sta abbastanza bene così», diceva. «Quando verrà un altro curato, disporrà della mia camera come di tutto il resto della casa secondo i suoi desideri». La camera aveva il pavimento di mattoni qua e là consumato e fu necessario che il sindaco approfittasse della sua assenza per attuare le riparazioni più urgenti. Le altre stanze della canonica non avevano mobili e rimanevano in assoluto abbandono. I telai delle finestre si erano disgiunti ed i vetri caddero. A pian terreno i rovi entravano nella cucina fino al caminetto dove un germoglio, messe le radici, cresceva indisturbato. Fuori della camera del santo tutto era in pessimo stato. Gli oggetti di suo uso erano ridotti allo stretto necessario perché per i pasti gli bastavano una scodella ed un cucchiaio. Caterina Lassagne dice che gli erano state regalate 3 o 4 tazze abbastanza belle. Un giorno in cui le cercava invano nella camera e sospettava fossero entrati ladri o pie persone per raccogliere reliquie, osservò in un angolo pezzi di maiolica. Gianna Maria Chanai, che era presente, disse al servo di Dio: «Signor curato, ecco dunque che fine fanno le vostre stoviglie». Egli sorrise e poi rispose un po' serio: «Ma dunque non potrò mai avere la povertà in casa mia?» Non diede mai un soldo alle direttrici della provvidenza per il suo personale fabbisogno e per il loro vitto provvidero sempre persone caritatevoli. Non si preoccupò mai del domani e quando gli vennero consegnate somme ingenti le destinò sollecitamente ad opere di bene perché sembrava che quella ricchezza gli bruciasse le mani. Scherzava e compiangeva quelli che risparmiano per il gusto di possedere, paragonandoli a persone che vogliono riempire un sacco di nebbia o che ammucchiano zucche trovandole poi guaste. Un giorno Caterina Lassagne lo avvertiva: «Signor curato, avete del denaro sul tavolo. Fate attenzione a non gettarlo nel fuoco». «Arrivate tardi», rispose senza scomporsi. La sera prima si era servito di una lettera nella quale erano 5 biglietti da 100 franchi per accendere la candela. Quando incontrò il parroco di Farin, gli confidò questa disavventura dicendo: «Ieri ho avuto in casa ceneri molto preziose, ma infine è mi normale che se avessi commesso un peccato veniale». L'amore dei poveri. Il suo cuore, ha detto la contessa di Garetz, si apriva a tutte le miserie. Egli amava teneramente gli infelici per i quali si spogliava di quanto aveva. Per avere qualche cosa di più da dare in elemosina, vendeva tutto quello che era di sua proprietà, i mobili, la biancheria ed ogni più piccolo oggetto. La sua carità era inesauribile. Qualche volta, secondo la testimonianza di fratello Atanasio, prima dell'alba aveva già elargito più di 100 franchi. Chiamava la tasca della sua veste, nella quale metteva il denaro destinato all'elemosina, la tasca a spola, perché il denaro che vi era riposto passava presto nelle mani dei poveri. Alla sera contava il denaro che gli rimaneva e quando non aveva più nulla faceva un debito. Non voleva correre il rischio di lasciare partire un povero senza il soccorso della sua carità. Ma non distribuiva il suo denaro a caso, anzi, faceva l'elemosina con molto discernimento guidato dall'intuizione. Di solito si dimostrava più generoso con coloro che si trovavano in bisogno maggiore. Negli ultimi anni pagava di sua mano l'affitto di almeno 30 famiglie che si trovavano ad Ars o nei paesi vicini ed ogni anno verso San Martino diventava avaro e raccoglieva il denaro dicendo «Devo pagare le mie pigioni». Molte famiglie che si trovavano in condizioni precarie ricevevano da lui legna e farina. Una madre di Villefranche per lungo tempo venne ad Ars ogni settimana chiedendo pane per i suoi bambini. Sapeva anche trattare a seconda della suscettibilità di chi lo avvicinava. Ad alcuni, venuti ad Ars per aprire un piccolo commercio, anticipò il denaro e quando si parlava di restituirglielo diceva «Io non faccio prestiti, ma regalo. Non ho forse ricevuto per primo dal Signore?» Nel suo armadio non gli mettevano che poche camicie per volta, perché se fosse avvenuto diversamente avrebbe distribuito tutto. Egli, che si era accorto di questa astuzia, diceva a Caterina «Dovete portarne un po' di più». La ragione? Faceva salire i poveri fino alla sua camera e là essi si cambiavano. D'inverno procurava loro un buon fuoco e così, come nota Caterina, mentre veniva riscaldato il loro corpo, il santo provvedeva anche a riscaldare la loro anima al fuoco dell'amore divino. Persone dei dintorni volentieri si sarebbero fatte dispensatrice di elemosine in suo nome, ma i poveri domandavano lui personalmente, lui che li chiamava col nome di amico e metteva in questa parola tale accento di cordialità che se ne andavano consolati. E diceva «Come si è felici quando vengono i poveri! Se non venissero si dovrebbe andare a cercarli e non se ne ha sempre il tempo». Approfittava di ogni incontro per distribuire loro l'elemosina. Un giorno, mentre andava a spiegare il catechismo all'orfanotrofio, incontrò un povero che aveva le scarpe in cattivo stato. Gli diede le sue rimanendo con le sole calze che cercò di nascondere sotto la veste. Un'altra volta, dice Gianna Maria Scianai, gli avevo portato nella camera un paio di scarpe nuove e con mia meraviglia la sera me lo vidi dinanzi con vecchie scarpe rotte che avevo dimenticato di portare via dalla sua stanza. Scherzosamente gli dissi «Avete già regalato via le altre?» «Forse», rispose. Nel gennaio del 1823, alla missione di Trevaux, durante la quale egli confessò quasi giorno e notte, i confratelli raccolsero il necessario per comperargli un paio di pantaloni e fecero acquisto di un buon velluto, augurandosi che il curato se ne sarebbe servito per lungo tempo. Ma un sabato sera il santo, ritornando a piedi alla sua parrocchia, incontrò un povero, tremante dal freddo ed insufficientemente vestito, presso la costa di Bruyère. «Aspettate un momento, amico mio», gli disse Don Vianney. E scomparso un istante dietro una siepe, ricompariva tosto tenendo in mano i suoi pantaloni che il povero infilò svelto. Pochi giorni dopo, alla canonica di Trevaux, si discorreva di quei calzoni e si domandò al santo se fosse contento del dono che gli era stato fatto. «Sì», rispose, «mi è servito molto bene. L'ho dato in prestito ad un povero, a fondo perduto». Aiutava di preferenza la madre Bichet, che dimorava vicino alla chiesa e che era cieca, perché poteva farle l'elemosina senza essere riconosciuto. Si avvicinava con discrezione, deponeva nel suo grembiule l'elemosina in viveri o denaro e si ritirava senza dire una parola. La povera inferma, talvolta, pensando si trattasse di una sua vicina, lo ringraziava così: «Grazie, buona signora, tante grazie». Ed il buon curato si allontanava ridendo di cuore. Ma la sua beneficenza si estendeva anche più lontano. Lo aiutavano fidati intermediari ai quali si raccomandava. Maria Filiat diceva «Sono andata a Lione, mandata da lui, per consegnare 100 franchi ad una famiglia bisognosa. Un giorno gli sembrava di aver dato troppo poco ad una persona povera e mi incaricò di andare a portarle altri 15 franchi. Compii molte commissioni del genere nelle parrocchie vicine». I poveri di passaggio, che si dimostravano a volte esigenti, ricevevano da lui un'accoglienza benevola. Don Toccanie gli faceva osservare: «Vi si inganna certamente, ci rimettete dando con larghezza a tutti quelli che si presentano. O, quando si dà a Dio, non ci si inganna». Una vecchia pensionante della provvidenza aveva rubato biancheria all'orfanotrofio e denaro alla sagrestia. Appena scoperta, fu arrestata e condannata alla prigione, riuscendo vano l'intervento di Don Vianney per risparmiarle questa umiliazione. Uscita di prigione, implorava la carità del santo ed otteneva vesti e soccorsi. Ricordati questi fatti, è facile immaginare quale venerazione godesse Don Vianney tra i poveri che lo circondavano appena usciva di casa. Ars era diventato il ritrovo di tutti gli indigenti. Vi furono dei parrocchiani che, stanchi di ospitare questi infelici non sempre raccomandabili del tutto, avevano manifestato il proprio disappunto al sindaco, lamentandosi del curato. Il conte di Garez raccolse queste voci e ne fece parola all'interessato. Don Vianney si accontentò di rispondere: «Non ha forse detto nostro signore che avremmo sempre avuto dei poveri in mezzo a noi?» Ed insistette perché nessuno venisse allontanato. La ragione del suo comportamento sta nel fatto che egli aveva dei poveri la stima soprannaturale che è ispirata dal Vangelo. Vedeva in essi Gesù Cristo stesso che ha esaltato la povertà. Così, nella sua predicazione, si compiaceva di raccontare qualche fatto della vita dei santi, dal quale appariva che il Cristo si era nascosto talvolta sotto le vesti di indigenti e si scioglieva in lacrime ogni volta che ricordava come San Giovanni di Dio, scoprendo delle cicatrici nei piedi di un povero che soccorreva, avesse esclamato: «Ma siete dunque voi, Signore?» Ma ecco un altro episodio che porterà nuova luce sulla considerazione di Don Vianney per la povertà. Un giorno d'estate, prima di mezzogiorno, mentre seduto alla sua piccola cattedra catechizzava la folla dei pellegrini, osservò un povero, carico della sua bisaccia e sostenuto da due grucce. Era giunto sulla soglia della chiesa e si sforzava invano di farsi strada tra la folla di pellegrini. Don Vianney, che seguiva i suoi tentativi inutili, improvvisamente si alzò, attraversò la folla e si avvicinò al mendicante. Siccome non rimaneva più alcun posto libero in tutta la navata, pensava dove condurlo. Un santo non si scoraggia così poco. Fa salire il povero sulla cattedra e lo mette a sedere sulla sua sedia. Quindi, stando in piedi, continua la spiegazione. Questo spettacolo sembra tolto dalla vita del poverello di Assisi.